fatta sopra una macchina del crash, dove mi sono fermato per mezzo, ho capito come mi sembrava. Ho messo in via ora e ti ho fatto abbandonare, non so tu. Che ha fatto stare in stato, è entrato da io, ho fatto stare in stato. Tutta voi, la remota, si è tappata, si è da bloccata, e poi è tornato in questo dai, e dove non è che andava a ritorno a bloccare. Ragazzi, non si fa come sicuro, c'era il cacco a pincare e fatto così dai. Lui fa mica che si convinzione dove è una strada, semplicemente una camionabile abile come di questo che va sotto in macchina a mano. Ok, finita. In un anno poi si va a tornare a passare il traffico pesante. Non è più strada da passare il traffico pesante. No, fai. È come se Balizzardo. A Balizzardo non ha scadere anche questa di più. Mica problema, è 20 ore di novembre, ma muovi. Dallo sentito c'è stato solo ore di da destra. E beh, questo non posso passare per risalire a sinistra, ok? No, non ti convedi, non sei stato abituato in macchina a mano. Che ti oggi il casinai passa, ma no. Ma sono totalmente abituato, ma non per macchina a mano, sai che non ti passa ore. Lo prendi. Infatti vuoi che non sono arrivato in coppa, no, ma ragazzi. Ma vado, c'è tempo di un gusto, di cose. E ci sono passato a destra. E tornavo da parte. Fai di prima, di che sono stato nervoso. Ma no, voi fai prima, ma dopo non fai di solito, ho dovuto scurva puro. E mi sei a metà la fiara, così. Come se tu povero, quando sei ricco, dove sei scadetti, devi pegando più a povero. Sì. Ti faccio scadetti dura. Ti chiede, no, ti scritto da là. E beh, prima di non sapere come stai. Ma tu che sei ricco, vuoi? No, in questo passaggio no. adesso sì. Cos'è? Accaiolo? Beh, non so perché strappa. Guarda così, lo devo fare dopo. Ma così sembra no. Ma così è un'altra. Sì. Ma è la che ti potete. Non so perché strappa. Aspetta un po'. Oh, la prova, prova. No, adesso no. Così sì. Com'è, ma? Ma non è fatta potenza? Infatti. Ah, si imbesse, è fatta. Come ti trovate un po'? Ah, ok. Sì, sì, sì. Adesso questo sabato io sto a prendere domani il figlio di 18 ore. Ah, lui c'è un po' troppo, ma c'è l'altro. Tutta pugna. Ma tu a no, nel Berlingo, non so, nel Cangubo. A te, sta Gio Maria Gufo. A te, sta Gio Maria Gufo. Hola. Sì, hola, Zamelanzana. Ehi, sono a sera. Ehi, con il cazzo sono. Ma non da tutta le due. Ma da dove? Ho capito. Vabbè, perché tu sei stavato in un sito là, dove stai mandando. Ho capito. Ciao, vai bene. Ho detto che tu stai lì, Ma stavo a passare stamattina, ma non è stato possibile, sempre presto, ragazzo, da Isabara, batte all'altra ragazza, e poi era già tardi, così che non sono potuto passare lui. Ma cosa la porti del tanto apparato rosa? Perdi il numero e quando ti tocca non ti vengo. Quando riguarda la Poi la diabetologo dovresti avere l'appuntamento. Per esempio noi, io ho l'appuntamento a maggio se non sbaglio, però prima di maggio devo fare le analisi, capito? Per essere pronto quando vado. Ma così, lui va per fare le analisi, dopo quando fa la diabetologo gliele dai, capito? Ehi, ai. Ma ce l'hai già l'appuntamento di diabetologo, no? No, ok. Ma chi c'ha tua madre come dottore? Come dottore? Allora, la diabetologa, qual è che c'ha? Il sto a vedere l'appuntamento, capito? Lei quando va a fare, si dice, ecco, per esempio, ti fa il controllo e lei ti fa l'appuntamento, non so, fra 2 o 3 mesi o 6 mesi, capito? Stavo dicendo che devi vai a prendere l'appuntamento, vai in segreteria e ti fai l'appuntamento, gli dici che è la dottoressa, non so chi hai, e poi quando ti hanno appuntamento, dopo una settimana prima dell'appuntamento vai a far fare il prelievo. Ce ne sono 2 o 3 mi sembra lì, Parco Rosa. dalle analisi se ne accorge come sto andando o come non sto andando, capito? Io ho la stanza, ma sono tutti lì sono, capito? Di solito quattro ne fa, uno o due? Una solo, ho fatto tutti, mi farà, ha iniziato anche quella lì, beh, se sta andando bene, e beh, gli ha le partite, e gli ha la partita. Certo che se tiene alle regole gliela leva senz'altro, sapete che sta andando bene, per cui gliela può anche le fare. Io pure le facevo tre e dopo se andava bene me le fatte, e ne faccio solo una, solo la notte, capito? Non faccio solo, però la mattina e a pranzo le piglio la pastiglia. Vabbè, adesso bisogna anche vedere che tipo di diabete c'ha, che non sto tutte precise, no? Vedi, Luca ne ha un altro tipo. È vero. Cosa ti vedo? Che mangio cacumera, io. sai, queste vari solini abita che sei l'aero. Lontana. Che puoi usare? No, lo conosco, so che ce ne sono due o tre lì, capito? Facello, mi sembra che l'ho sentito là. E tu lo chi c'ha? Ah, che fa ad esempio? A Starbaccio. A che? A Starbaccio. Fai c'è una donna. Fanno. Ma sono lì tutti, capito? Ce ne sono tre o quattro, se non sbaglio. L'unico coso, la Sardegna è pieno di abiti. Le isole sono le più colpite. Che bella! Ma lavora tale volume, lo devo aumentare io. Adesso già ti ho capito. Per forza si parla da un coso, da un baratto, fa vedere, ragazzi. Dimmelo, no, se sto facendo male, così aumento, diminuisco. Adesso già va bene, lasciala così. Non ti allontanare però. È vero. Ah, un calore, vero. Oh, via. Sta dolore il gioco, Farò male tutte le ossa. E via. Sì. Sì. Non le misurate? Meglio. 2.5. che è lui? Ah, sciogli il finale. Da parecchio mi do. Ci sentiamo fiaco bruciato, già sappiamo che da questa zona. E tu quanto ne hai tu? Io manco uno, manco si muove l'altro. Così già va bene. E ne meva. Adesso con la delta ne ho 1 e 2. Sì, caro. Ti ho detto, una cara pesca. Ce l'hai, mi hai detto. Un piccolo acqua. Sì. Caccio. Andiamo, Castro, e la prendi. Eia! E il cagare! Sacco solo! Ehi! Amato, desesperami! E 44 uvi! E tu che zio, da si è? Cioè, impara mazzo del magnato. La razza è frittata, boh, ma che hai imparato a fare frittata così? Ah, già. Figlio, come bisogna fare la frittata a lui? Ha già mandato la foto, la sa lì. Certo, mi ha mandato le lacrime che le venivano i parenti, la papa, quando ha già mandato la foto della frittata che ha già fatto lui. Davvero? Si fa la salsa e poi la pasta di Zaghito. Un mazzo sta di ieri, ma un mazzo grande però, cazzo, boh. Mi pare la disuffata, ma da cazzo mi so come niente, boh, so cosa fa, da sicuro i saluti, sta fermo la frittata, boh. Vediamo un po', e faccio, basta poi sta corri e a che basta il mal di pancia. E allora mangia il bianco, almeno la 15 giorni deve mangiare in bianco, vedrai che ti fa. E tanto lui, le uova ormai ci sono dappertutto, guarda, anche nelle torte, nei melacacchi, Gianmario, ormai le uova sono dappertutto. E chiaro figlio, ci sta tanta roba di niente inquinata, che lui non se la bisogna. Era male, io non ne so mangiato quelli di negozio, me li sta portando Mario, perché ne porto un po', quelli già le mangio, ma quelli di negozio non li mangio più, anche da una di che ha gestito la decisione, non so cos'è, che vera, da lì non ha già mangiato più di subi. E prende quello è l'allevamento all'aperto, con l'allevamento all'aperto, capito? Quelle sono le migliori, sono belle grandi, costicchiano un pochino, però sono buone. Sono signore uova, noi che si miniatura ovetti kinder che vendono. Cosa? Latte di gallina? No, di quelli no. Luca lo beve a litri. Ebbene, solo lui lo può permettere. Fate il mammo, la zitta mi sento un po'. Ciao, fai sapere per domani se vuoi andare. Ciao. D'accordo. I pannelli mi sa che sono giusto. Però 4-5 li prendo ancora. Li prendo 4-5, per rivestire magari qualche punto dove magari più brutto. E poi quel tubo, quello estensibile. Basta, non mi piace. Ciao, e ci sta il gran chiaro. Ma che è questo? Ma non vuoi grazie al gran chiaro? E ci spiegherò. Ma mi ha fatto digestione di granchi e sentesi umani. Ah, sì. In maniera. Non me lo dire. Sta andando questo. Un po' così, Un po' cupa, Occupa, Non è squillante. E cosa sarà? Dormo, pensaci tu. Troppo forte. No, non c'è molta amplificazione. Adesso mi gioco, Vedi? Vedi un po' adesso? Ma è sempre ma stesso. Peggio, Mi sembra lo stesso. Vedi un po' adesso, 1, 2, 3? No, non sta cambiando niente, Giommaggio. Non ha cambiato niente. Cosa sarà? Vediamo un po'. Ora. Ma forse la voce mia o no? Palazzi. Non c'è da toccare niente. E adesso? Ma ti sento solo che alzi la voce e basta rispetto a prima. E allora ce lo butto là. Un attimo il telefono. Allora. Ok. proprio qua. Sì, un po' trombetta, stai uscendo. Ancora? No, adesso va bene. Mette che si chiamava, ma ha messo il nome. Sono qui, sono arrivato anch'io. Se lo so, un attacco, sì. Bene. Tu mi arrivavi, guarda, una meraviglia. Capito, però me non mi sentivo. Ero gommino stesso, non accadito. Strano proprio, ma lo sappiamo questa frequenza com'è nata, purtroppo. Ma così con Marchiglio se li metto due attacchi senza Torre, senza Graziano, e a Marchiglio non lo sento, capito? Lui mi sente, mi sembra. È molto probabile, quell'antennino le sentini, batte. Qua arrivi benissimo. Manco non arrivi né QR Master né niente, infatti nei barienti di non masticare, di arrugare, senza un filo di QR. Claro proprio, Ecco, ma qui siamo la stessa cosa, figlio la so. Infatti, è la stessa cosa con Bacchisio. A Graziano bisogna avvisare a piazzare la 27. Quando entra vi lo dico. L'avrà finito di mettere la pelle sulla stufa. Allora di qui ragazzi, tutta la sera ragazzi, senza fare niente, essere dimenticato a fare la pelle sulla stufa. Ma poi anche se un freddo si è ammettato. Mi penso all'ultimo momento che andiamo anche lì. Per carità, non si può fare più delle lame. Chissà cosa la Bersendi, ha attaccato il computer, ha mangiato sempre questi milanesi, questi siciliani, cazzo. Sai più innamorati pure, grazie. E allora, prima proprio la siciliana. Mi pare che sia di cose milanese qui, chi sai farà. E allora, che sta abbandonando vicino? Hanno combinato e ne combinando ancora. Figlio Graziano. È un bricconcello questo Graziano. Non li vogliamo fare né casa né l'ana. Questo è diventato un don Graziano, non do Giovanni, don Graziano, ragazzi. Tutti a lui voglio, tutti a lui, a noi non ci vuole nessuno. È vero, questo Graziano è proprio un bricconcello. Chissà cosa ha combinato la giovane questo Graziano. Tutte le donne per conto suo erano, ragazzi. Oi. Avanti, Tore. E così è. Era diventato un bricconcello. Però, occhio, le cartucce finiscono. Ci andiamo, me andiamo. Marino, non mi devi dire di cose, mi rubone di Maramori. Ah, vero. Ma il Cesar Rossi cosa ha detto? Arimai. Io si calma, va sempre va con la bicca, va. Grazie, io esci la pisa, vieni qua. Aspetta Gianmaria, lo chiamo. Vai, non sei insieme a me, deve stare ancora. Non rispondi, devi lasciare vedere indaffarato, devi darsi. Mi dove? Mi ha detto che non ne ha voglia Gianmaria. Come al solito. Lui ha solo voglia del TMR, boh! Sì, davvero, sì. E chi è costui, papà? Sì, già sono qua, già. Se rimane in TMR potete tornare lì, io già vi ascolto, là, non c'è problema. Tanto sto facendo cosa col computer, Gio Marino. Vabbè, se è così allora andiamo là, cosa vuoi fare? Allora, a Gian Marino. Ah, tanto Natalino sta lavorando al computer. Già ti sente? ti ascolta, infatti almeno possiamo dire qualche cosa di male a Graziano là. Facciamo così. Ora, ora, 1, 2, 3, prova, ora, ora, ora, ora, ora, 23.